sei tu, ritorna ancora qua giù, aspetta sempre il mio cuore, sempre con amor. Tra tante stelle per me, una soltanto ce n'è, è la più bella che dà la felicità. Un giorno forse ancora verrà e resterà per non partire più. La stella d'or che sogni ancor risplenderà lassù. La vera stella sei tu, ritorna ancora qua giù. Aspetta sempre il mio cuore, torna mia stella d'oro. Guardo il cielo tutto blu, vedo le stelle di lassù. Chissà perché io penso a te, che non sei tornata ancora. Tra le stelle tutte d'or, io cerco quella dell'amor, la cerco in van, tu stai lontan, la mia stella non c'è più. Sempre il mio cuore, torna mia stella d'oro.